Intanto, la sera della prevista assenza di Morel era arrivata. La missione di Jupien era riuscita. Lui e il barone dovevano arrivare verso le 11 di sera e sarebbero stati nascosti. Tre strade prima di arrivare a quella magnifica casa di tolleranza dove affluiva gente da tutti i dintorni eleganti, Charlot già camminava in punta di piedi, contraffaceva la voce, supplicava Jupien di parlare più piano, nel timore che da dentro Morel li sentisse. Ora, non appena entrato a passi di lupo nel vestibolo, Charlot, che aveva poca dimestichezza con posti del genere, si trovò, con terrore e stupefazione, in un luogo più rumoroso della borsa o della casa delle aste. Invano raccomandava a certe servette che gli si affollavano intorno di parlare più piano. D'altronde, anche la loro voce era coperta dal clamore delle offerte e delle aggiudicazioni gridate da una vecchia vice tenutaria dalla parrucca scurissima, nel cui viso si screpolava in mille rughe la gravità d'un notaio o d'un prete spagnolo e che sbraitava ogni minuto con fragore di tuono, facendo alternativamente chiudere o aprire le porte, così come si regola la circolazione delle vetture. «Mettete signora 28 nella camera spagnola, fermi, non si passa più, riaprite la porta, questi signori chiedono Mademoiselle Noemi, li aspettano nel salotto persiano». Charlot era spaventato come un provinciale che deve attraversare i boulevard. E, per ricorrere a un paragone infinitamente meno sacrilego, del soggetto raffigurato nei capitelli del portico della vecchia chiesa di Colliville, le voci delle giovani domestiche ripetevano in tono più basso, senza stancarsi, l'ordine della vice tenutaria, come il catechismo che si sente salmodiare dagli scolari nella sonorità di una chiesa di campagna. Charlot, che per strada, convinto che Morel fosse alla finestra, tremava all'idea d'essere sentito, adesso, per quanto terrorizzato, non lo era forse altrettanto nel ruggito di quelle immense scalee, dove era chiaro che dalle stanze non c'era modo di vedere nulla. Infine, al termine del suo calvario, trovò Mademoiselle Noemi, che doveva nasconderlo con Jupien, ma per cominciare lo rinchiuse in un sontuosissimo salotto persiano da cui non si vedeva un accidente. La ragazza gli disse che Morel aveva chiesto un'aranciata e che non appena gliel'avessero servita, i due viaggiatori sarebbero stati accompagnati in un salotto trasparente. Nell'attesa, poiché la volevano altrove, promise come in un racconto che per aiutarli a passare il tempo avrebbe mandato loro una piccola signora intelligente. Lei, infatti, doveva andar via. La piccola signora intelligente aveva una vestaglia persiana che voleva togliersi. Charlot le chiese di soprassedere e lei si fece portare dello champagne che costava 40 franchi la bottiglia. Nel frattempo, in realtà, Morel era col principe di Guermantes. Aveva, per la forma, fatto finta di sbagliare camera, entrando in una dove c'erano due donne che si erano affrettate a lasciar soli i due signori. Charlot ignorava tutto ciò, ma imprecava, voleva aprire le porte, fece richiamare Mademoiselle Noemi, la quale, sentendo che la piccola signora intelligente forniva a Charlot particolari su Morel che non coincidevano con quelli da lei forniti a Jupien, la fece sloggiare e inviò al più presto, per sostituire la piccola signora intelligente, una piccola signora gentile, che non mostrò loro niente di più, ma li informò di quanto fosse seria la casa e chiese, a sua volta, dello champagne. Il barone, schiumante di rabbia, fece richiamare Mademoiselle Noemi, che ammise «Sì, va un po' per le lunghe». Le signore si mettono in posa, lui si direbbe che non abbia voglia di combinare niente. Alla fine, davanti alle promesse del barone, alle sue minacce, Mademoiselle Noemi se ne andò con aria contrariata, assicurando che non avrebbero aspettato più di 5 minuti. I 5 minuti durarono un'ora. Dopodiché Noemi condusse a passi di lupo Charlot, ebbro di furore, e Jupien desolato, verso una porta socchiusa, dicendo loro: «Da qui vedrete benissimo. Del resto, al momento non è molto interessante. È con tre signore. Sta raccontando la sua vita di caserma». Il barone, finalmente, poté vedere attraverso lo spiraglio della porta e anche negli specchi. Ma un terrore mortale lo costrinse ad appoggiarsi al muro. Era Morel, certo, quello che aveva davanti a sé, ma come se i misteri pagani e gli incantesimi esistessero ancora, era piuttosto l'ombra di Morel. Morel imbalsamato. Nemmeno Morel resuscitato come Lazzaro, bensì un'apparizione di Morel, un fantasma di Morel. Morel riapparso o evocato in quella camera dove dappertutto, su pareti e divani, si ripetevano emblemi di stregoneria, a essere lì, a pochi metri da lui, di profilo. Morel aveva, come dopo la morte, perduto ogni colore. Fra quelle donne con le quali sembrava che avrebbe dovuto trastullarsi gioiosamente, se ne stava livido, irrigidito, in un'immobilità artificiale. Per bere la coppa di champagne che aveva davanti, il suo braccio senza forza cercava lentamente di tendersi e ricadeva. Si aveva l'impressione di quell'equivoco in forza del quale una religione parla di immortalità, ma intende con ciò qualcosa che non esclude il nulla. Le donne lo assillavano di domande. «Vedete», disse piano Noemi al barone, «gli parlano della sua vita al reggimento. È divertente, non è vero?» E rise. «Siete contento? È calmo, no?» aggiunse, come se si riferisse a un moribondo. Le domande delle donne si infittivano, ma Morel, inanimato, non aveva la forza di rispondere. Non si produceva il miracolo d'una sola parola, nemmeno mormorata. Charlus non ebbe che un istante di esitazione. Afferrò la verità. Capì che, fosse maldestrezza di Jupien quando era andato ad accordarsi, o potenza espansiva dei segreti confidati e mai serbati, o naturale indiscrezione di quelle donne, o timore della polizia, si era avvertito Morel che due signori avevano pagato assai caro per vederlo. Si era fatto uscire il principe di Guermantes, trasformandolo in tre donne, e si era piazzato il povero Morel tremante, paralizzato dallo stupore, in modo tale che mentre Charlus lo vedeva a stento, lui terrorizzato, ammutolito, incapace di prendere il bicchiere per paura di lasciarlo cadere, vedeva in pieno il barone. La storia, del resto, non finì meglio per il principe di Guermantes. Quando, perché Charlus non lo vedesse, l'avevano fatto uscire, lui, rabbioso di delusione e senza sospettare chi ne fosse il responsabile, aveva supplicato Morel, pur continuando a volere che il violinista ignorasse la sua identità, di dargli appuntamento per la notte successiva nella minuscola villa che aveva preso in affitto e che, pur dovendoci restare pochissimo tempo, aveva decorata, secondo la stessa maniacale abitudine che abbiamo già riscontrata in Madame de Villeparisis, con un gran numero di cimeli di famiglia, per sentirsi più a casa sua. Il giorno dopo, dunque, Morel, guardandosi alle spalle ogni minuto, tremando al pensiero d'esser seguito e spiato da Charlus, aveva finito, non avendo notato nessun passante sospetto, con l'entrare nella villa. Un cameriere lo fece accomodare in salotto, dicendogli che avrebbe avvertito il signore. Dal padrone gli era stato raccomandato di non pronunciare la parola principe, per non destare sospetti. Ma quando Morel si trovò solo e volle controllare allo specchio se il suo ciuffo non fosse scomposto, fu come un'allucinazione. Sopra il camino le fotografie, che poté riconoscere, avendole viste in casa di Charlus, della principessa di Guermantes, della duchessa di Luxembourg, di Madame de Villeparisis, cominciarono col pietrificarlo di spavento. Subito dopo scorse quella del signor di Charlus, che era un po' più indietro. Il barone sembrava fissare Morel con uno sguardo strano e immobile. Folle di paura, riavendosi dal primo stupore e sicuro che si trattasse di un tranello in cui Charlus l'aveva fatto cadere per mettere alla prova la sua fedeltà. Scese a precipizio i pochi gradini della villa, si slanciò a tutta velocità per la strada e quando il principe di Guermantes, convinto d'aver fatto fare a una conoscenza occasionale il necessario tirocinio, non senza essersi chiesto se la cosa fosse prudente e l'individuo non pericoloso, entrò nel salotto, non vi trovò più nessuno. Inutilmente in compagnia del cameriere, temendo la manovra d'un ladro, esplorò, revolvere in pugno, tutta la casa, che non era grande, i recessi del giardinetto, lo scantinato. Il compagno, di cui aveva creduta certa la presenza, era scomparso. Lo incontrò varie volte nel corso della settimana successiva, ma ogni volta era Morel, l'individuo pericoloso, a scappare, come se il principe lo fosse stato ancora di più. Ostinato nei suoi sospetti, Morel non se ne liberò mai, e anche a Parigi la vista del principe di Guermantes bastava metterlo in fuga. Così il signor di Charlus fu protetto da un'infedeltà che lo torturava e vendicato senza nemmeno immaginarselo e soprattutto senza sapere come. Ma già ai ricordi di ciò che m'era stato raccontato su questo argomento ne subentrano altri, giacché il TSN, proseguendo con la sua andatura da trabiccolo, continua a depositare o raccogliere viaggiatori nelle stazioni che si susseguono.